Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Oh, caro chef, come stai? Quest'estate è un po' diversa, ma insomma, sta cominciando a entrare nel vivo, direi, no? Caro Pier, buongiorno a tutti, buongiorno amico mio, va bene, sono a mio agio dopo i 3 mesi di lockdown, sto cominciando anch'io a prendere come un po' il di lavoro? Pratica su quello che è. Ma come bene, va la ripresa? Abbiamo iniziato, devo dire che la paura era quella di dare quella tranquillità che il nostro ospite vuole, ce l'abbiamo fatta, per cui abbiamo tanta richiesta, abbiamo diminuito i tavoli, abbiamo tolto 4 tavoli su 12, per cui un buon 30% in abbondanza per garantire una tranquillità e insomma quello che vuole il nostro ospite, e devo dire che la richiesta è tanta, la voglia di uscire da parte certo. del pubblico è veramente tanta, la voglia di vivere, se ne è parlato tanto, se ne parla per esempio per quanto riguarda il calcio, se ne parla per quanto riguarda qualsiasi altro aspetto della vita umana, dal cinema ai teatri, ovviamente i ristoranti, la ristorazione, il mangiare fuori soprattutto in questo periodo con la bella stagione è fondamentale. Oggi è una puntata dedicata a Lazio e Sardegna, abbiamo degli amici straordinari devo dire in arrivo, e io comincerei dal professor Andrea Viarello, giornalista, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, direttore di Rai 3, ex direttore di Rai 3, assaggiatore di formaggi della ONAF, amico vero, come stai? Soprattutto amico, ciao, sto bene, sono uscito anch'io e quindi ce l'abbiamo fatta, dai. Ce l'abbiamo fatta, ho mille cose, mille curiosità da chiederti, ma insomma oggi è una puntata dedicata al Lazio e alla Sardegna, poi parliamo della cucina romana, però io vorrei partire da questa cosa dell'ONAF, cioè come si diventa assaggiatore ufficiale di formaggi? Un corso. Diciamo che ho avuto un periodo dopo aver fatto il direttore di Rai 3, no? Che tu hai scritto, l'hai detto, no? Ex, ecco, però ci ho avuto un po' di, sai perché ogni tanto succede, no? Nel nostro mestiere, ho avuto un po' di mesi in cui, diciamo, non mi facevano fare molto. Ecco, allora, siccome avevo una grande passione per il formaggio, un giorno dico, ma ci sarà un modo? Entro nel web e capisco che esiste questo bellissimo ONAF, che è veramente una grande organizzazione, che dopo pochi giorni iniziava il corso. E l'ho fatto per, erano 2 ore per 10 settimane, e bellissimo, ho fatto un esame, ce l'ho fatta, e con una spada mi hanno, diciamo, benedetto, e da quello, da allora sono diventato assaggiatore. Sei diventato assaggiatore ufficiale di formaggi. Questa cosa. Male, quindi dimmi il tuo formaggio preferito. Scanzi, qual è? Sì, anche Scanzi lo fa, eh. Anche Scanzi. Lo chiamano una volta. Prima lo chiamo di Scanzi. Lo chiamo volentieri. Di formaggi. Ma tu sei, per che genere sei? Gli erborinati, i morbidi, gli stagionati. Chi lo ama non fa neanche, diciamo, la distinzione, certo. Esattamente, no? Cioè, stiamo parlando di gamme talmente diverse che a seconda di quello che hai in quel giorno, la voglia che hai, le cose che bevi, insomma io amo tutto, devo dirti. Una piccola provocazione: se ti dovessi dire tosone, non è una parolaccia, non è un'offesa, no. Attenzione Pier, non è una parolaccia, no. Che io sto dicendo ad Andrea. Beh, è un bel tosone, mo mi metti in difficoltà, dimmi un po', vai, ma avanti, chi è sto avanti, tosone? Ma chi è sto tosone? No, allora è una cosa molto è passata, non esiste praticamente più, però il tosone era quel pezzo di formaggio che veniva fatto nella produzione del grana padano barra parmigiano reggiano o viceversa, dove veniva messo il formaggio prima in salagione per far prendere un po' di sale e di sapore, dopodiché veniva messo nelle forme e, essendo pezzi magari un po' più irregolari di quelli che si fanno adesso, quando veniva messo nella sua forma fuoriusciva una piccola parte. Okay. Questa piccola parte veniva tagliata e veniva chiamato tosone. Praticamente era un pezzo di formaggio molto morbido che non era utilizzato per fare un formaggio stagionato, e la gente lo mangiava come o arrostito in padella oppure un pezzettino giusto per masticare questa consistenza molto gommosa. E non si fa più però? Non si fa più perché naturalmente con la tecnologia, col fatto dell'utilizzo delle bilance, che secondo me è la cosa più intelligente per avere sempre il prodotto allo stesso punto di maturazione con lo stesso peso, non si fa più, per cui le forme sono, non ci sono gli scarti, già predestinate Esatto. Assolutamente. Senti, parliamo di cucina romana. Io qui ho già sbirciato i due piatti romani perché facciamo queste puntate mix. Oggi abbiamo Lazio e Sardegna, e quindi insomma hai saltato per una volta i primi romani, ma semplicemente per un motivo ovviamente di brevità. E però invece vedo che poi ti occuperai di animelle impanate, caro chef, con insalata di carciofi romani e menta, che è una sembra un manifesto alla romanità. E al quinto quarto, che rapporto hai con la cucina romana, Andrea? Praticamente è la mia ABC, no? Nel senso che l'amo, ci sono cresciuto e ancora oggi, se devi andare a mangiare con gli amici veri, no? Cioè non magari a fare le cose fighette, no? Ma certo, se andiamo a mangiare una bella osteria, diciamo, no? Come ci piace a noi, ecco. Certo. E che mangiamo soprattutto? Quella roba lì, certo, arriva soprattutto il quinto quarto, le animelle, la pagliata, la gricia, insomma, quella cosa meravigliosa che è la, che è una cucina sicuramente molto povera, però ricca, ricca soprattutto, però io direi, dei sapori. Pier, io direi che anche nella cucina moderna il fatto del quinto quarto è molto importante, perché una cucina moderna deve essere armoniosa. Per essere armoniosa non può avere solo ingredienti top o solo ingredienti che a noi piacciono. Per essere armoniosa deve avere noi abbiamo al ristorante, nel ristorante Do abbiamo 18 piatti e sono 18 piatti con 18 ingredienti diversi, per cui la diversità fa armonia nella cucina. Fa sicuramente varietà, la varietà fa ovviamente qualità e insomma anche sapori non del tutto banali, i sapori che non ti aspetteresti. Allora ci fermiamo solo per un attimo, poi ripartiamo dalle animelle, ma voglio anche capire qualcosa di ogni parola che sapevo, che è questo capolavoro che Andrea Vianello ha scritto raccontando la sua esperienza, e vorrei ripartire da lì e capire quanto il cibo ha avuto un ruolo in questa rinascita, in questa battaglia vinta, stravinta. E fra poco ne parliamo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Mangia come parli. Allora, siamo con Andrea Vianello, abbiamo scoperto qualcosa di più della sua passione per i formaggi, ovviamente, insomma, la sua carriera poliedrica da conduttore televisivo, radiofonico. Poi c'è questo libro che è un piccolo gioiello, che è Ogni parola che sapevo, che racconta una grande storia, no? di reazione a una cosa brutta che ti è capitata nella vita. Noi qui ci occupiamo di cucina del territorio e questo è un piccolo codice fra di noi, Andrea. Il libro è bellissimo, la storia è la storia di una battaglia vinta, e ti chiedo quanto se il cibo ha avuto un ruolo in tutto questo, assieme agli affetti, assieme alle passioni, nella rinascita, no? Nel mettersi alle spalle pian piano le paure, nel ritrovare una alla volta tutte le parole che sapevi, appunto. Beh, intanto grazie per quello che dici del libro. Sì, il cibo è sempre la base, no? Delle nostre vite, di tante cose delle nostre vite, no? E soprattutto le cose conviviali, no? Perché per esempio in questa mia battaglia, come hai detto te, nel senso io appunto ho perso dopo un ictus le parole, non riuscivo più a parlare, insomma, diavolo, era l'unica cosa che facevo bene. Per esempio io per 3 settimane non riuscivo a vedere i miei figli, avevo paura di vederli. Avevo paura che mi vedessero come un mostro, nonostante che non si vedeva niente, però senza le parole mi sentivo sfigurato, no? E siccome poi è stato i 17 anni di mio figlio, è stata la prima volta, dopo che sono stato male, dopo 3 settimane, in cui ho fatto un errore non vederli, in cui li ho visti e siamo andati a mangiare insieme in un posto vicino alla clinica dove io stavo, che si chiamava la Santa Lucia, sull'Appia antica, che sembra un po' un posto da turisti, ma in quel momento è stato proprio un mio ritrovare non solo gli affetti, non solo i miei meravigliosi figli, che ho capito avevo fatto degli errori, loro mi volevano vedere, non era così importante se parlavo bene o no, ma soprattutto stare tutti insieme, mangiando le cose romane anche in un posto di turisti, ma che erano il sapore della mia vita. Mi sembra bellissimo che tu abbia raccontato con poche parole, insomma, anch'io ho un pantheon, devo dire, dei miei pranzi, delle mie cene, insomma, quelle importanti della vita, no? Quelle che ti rimangono in mente a distanza di anni, perché magari si legano a persone che non ci sono più o si legano a momenti assolutamente particolari. Senti, Oldani, ma queste animelle, vogliamo, perché qua ci stiamo girando attorno a queste animelle, vogliamo farle le animelle impanate in salata di carciofi, romani e menta, vai! Perfetto, allora animelle impanate, insalata di carciofi romani e menta, quindi le mammole come carciofo. Quindi facciamo spurgare i 16 pezzi di animella più o meno sui 40 grammi a pezzo di animella. Le animelle vanno sempre fatte spurgare per almeno 2, 3 se non 4 ore sotto acqua corrente e magari con un po' di ghiaccio. Poi le cuociamo al vapore per 15 minuti. Una volta cotte a vapore leviamo la piccola pellicina che c'è sopra, quindi con molta attenzione uno spelucchino togliamo questa pellicina, le infariniamo leggermente, le impaniamo ma senza tuorlo d'uovo, perché già l'animella che è una frattaglia ha un po' di colesterolo in effetti, per cui non mettiamo il tuorlo d'uovo ma le impaniamo solo con dell'albume d'uovo sbattuto e del pane grattugiato. Facciamo sciogliere 40 grammi di burro salato in un padellino. Facciamo arrostire per bene le animelle, dovranno risultare naturalmente croccanti sulla parte esterna e molto morbide all'interno. Poi è molto semplice il carciofo, tagliamo a fette sottili con l'aiuto di una mandolina ben affilata 4 cuori di carciofo. In questo caso, naturalmente, Pierre, possiamo usare la mammola, che è il carciofo romano, certo, dove sono poche foglie, non ci sono le punte naturalmente, e il cuore è molto largo e molto grande. Condiamo questa... li mettiamo naturalmente un po' a bagno in acqua e ghiaccio per renderli ancora più croccanti per una ventina di minuti. Poi li scoliamo, li asciughiamo, li condiamo con un po' di aceto di lampone, sale fine o a questo punto delle piccole scaglie di sale, magari può essere un sale siciliano o un sale di Ravenna, un sale grosso. Poca polvere di peperoncino piccante, quindi condiamo il tutto per bene e poi cosa finiamo? La finitura, cosa facciamo? La finitura del piatto mettiamo su un foglio di carta alimentare piegato a modi origami giapponese le animelle dorate, i piccoli pezzettini di animella dorata, e in una ciotola a fianco di questi carciofi croccanti, molto croccanti, freschi, e delle piccole foglie di menta, per cui menta, carciofo, animella. Molto interessante, anche perché diciamo che rispetto alla versione quella tradizionale, quella dell'animella da bacchio, tu hai scelto il vitello e poi c'è questa nota della doppia cottura per una consistenza più soffice. Le è piaciuto, Vianello? Apprezzato? Mamma mia, moltissimo. Adesso andiamo, io le mando soprattutto fritte, però vedo che insomma... Bravo, io ho un problema col quinto quarto, ragazzi, io non sono un vero romano, ho un problema col quinto quarto, mi sento veramente che mi manca qualcosa, ma che dobbiamo fare nella vita? Ciao Andrea, grazie, un bacione. Ciao, ovviamente, Andrea, ciao. E ci sentiamo presto. E adesso abbiamo un altro amico, perché abbiamo, insomma, passiamo a un gigante del basket. C'era una volta la rivista I Giganti del Basket, storica, gloriosa, un uomo nato a Montebelluna ma che vive tante vite, insomma, ha vissuto fra l'altro anche a Roma, ma soprattutto ha il cuore e il sangue sardo, ed è se rinasco Gigione da Tome. Come stai? Ciao Piero, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene? Ciao, buongiorno Luigi. Benissimo, grazie, buongiorno. Tutto bene, Gigi. Allora, senti, ma come funziona la cucina in Sardegna? Cioè, se io ti dico cucina sarda, tu il tuo primo pensiero, la tua prima Madeleine, qual è? Ci sono due approcci, no? La Sardegna è bella per il mare, per le spiagge, ma anche per l'entroterra. Quindi se vai di cena di agriturismo, ci sono i culurgiones, ci sono i ravioli, ci sono i maloreddus, poi si passa ovviamente al porcetto, e questa è la cina tipica tivesa, con tanti antipasti, insomma, che ci si può perdere, fare il classico errore di abbuffarsi agli antipasti e poi non arrivare alla che è un errore meraviglioso, però posso dirtelo, sì. È l'errore che faccio sempre, ma io fra l'altro per me non è un errore, perché io poi vado avanti senza, come se niente fosse, ma perché sono allenato. È vera questa cosa, devo dire che è una delle cose più impressionanti e più sorprendenti le prime volte che si va in Sardegna, no Gigi? Che ci si rende conto che è una regione ovviamente famosa nel mondo perché ha le migliori spiagge d'Europa, quantomeno d'Europa, e perché ha un mare meraviglioso, ma in realtà il popolo sardo è come se fosse attratto da quell'entroterra, da quel senso di protezione che la terra sa dare, e anche la cucina riflette questo tipo di sensazione così forte. Ah, sì, la Sardegna è un mondo, sicuramente le coste, le spiagge, insomma, io sono di Olbia, vivo a Volfaranchi, quindi assolutamente, però c'è anche, ci sono posti in cui veramente perdersi, come la Barbagia, l'Ogliastra, il Medio Campidano, la Sardegna è veramente tutta da scoprire. Sì, la cucina ti viene incontro, perché mi sono dimenticato prima, tra i primi, forse il mio primo preferito è la zuppa gallurese, che è similmente alla cucina romana, diciamo. È la cucina... sai fare? No, io mangio, io arrivo quando è pronto. Neanche il lockdown mi ha fatto migliorare. No, assolutamente. E quindi così, no, assolutamente. La Sardegna è un mondo e va scoperto, e non è solo le spiagge, anche se adesso veramente tutti arriveranno in Sardegna per quello. Assolutamente, zuppa gallurese è un piatto, senti, piatto incredibile, devo dire, un piatto veramente ma incredibile. Luigi, io ho una curiosità: nel 2013, quando entri nella NBA di Detroit Pistons, com'era la cucina, abituato come eri tu qui in Italia, prima di un incontro della NBA? Siccome mi sono appassionato nel lockdown, cioè la zuppa di Detroit, Dance, com'è? Dire, ecco, meraviglioso. Ecco. Io sono abituato a girare tanto col basket, specialmente i primi anni, diciamo che non andavamo nei migliori posti, quindi ti devi abituare un po' a tutto, e soprattutto per mangiare la giusta dose di carboidrati, proteine, eccetera. Quindi in America sicuramente ci sono posti in cui si mangia bene, non hanno la nostra cultura sicuramente culinaria, però ho trovato anche una mappa discreta di tutti i ristoranti sardi sparsi per gli Stati Uniti. Potresti fare una guida? Potrei fare una guida, sì, c'è una nicchia praticamente. Com'è il livello medio? Perché la mia sensazione è che la cucina italiana, che 20 anni fa o 30 anni fa era una cucina essenzialmente, il ristorante italiano c'era ovunque del mondo, ma spesso insomma era più il brand con la bandiera dell'Italia fuori, era un modo economico di mangiare all'estero. Mi sembra invece che gli ultimi 20 anni, 30 anni si avrebbero tutto, fortunatamente, no? Sì, appunto, poi arrivi e capisci subito quanto uno è autentico e quanto uno è americanizzato, certo. No? E lo vedi anche solo dallo spelling nel menù, se là sbagliano qualcosa già ti fa male. Oppure bisognerebbe fare come Checco Zalone, che trova un'insegna di cucina italiana, poi mangia italiano e esce e toglie l'insegna del ristorante. Esatto. La tentazione c'è stata spesso. Le fettuccine Alfredo l'hai mangiate qualche volta nella vita? Sì, un classico, no? Le vedevo sempre, e tutti quelli che mi dicevano Italia, fettuccine Alfredo, con calma gli facevo capire che non trovi un ristorante italiano in Italia con le fettuccine Alfredo, però sono fatti così. Sì, sono ragazzi. Invece devo dire che in Turchia si mangia, cioè la Turchia molto interessante, no? Perché è una cucina ricca di contaminazione, con carne, con pesce, con influenze arabe, con influenze orientali, con influenze europee. Devo dire, la Turchia è un paese estremamente interessante da questo punto di vista. La cucina cos'è? C'è qualcosa di cui hai ghiotto da quelle parti? Assolutamente, tantissime influenze, tanto molto speziato, grande tradizione lì, grande tradizione, grande cultura. Il mio pasto preferito, diciamo, è il rak baluk, che vuol dire rakia praticamente, il raki è un liquore loro fatto con l'anice che si allunga con l'acqua e col quale si pasteggia, e poi una cena di pesce fatta con gli antipastivari, con le mezze, come le chiamano loro, quella è una cena che mi piace molto. Poi veramente vabbè, i famosi baklava, il kebab, che non è il nostro kebab aro che tu trovi alle 5 di mattina fine certo. Serata. è un piatto vero e proprio, certo, con sì, tutti i grilli, griglia, con tutto il rispetto per i kebabari, per carità. Certo, assolutamente. Un attimo e ripartiamo subito. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchesi, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, puntata dedicata a Lazio e Sardegna. Siamo con Gigione da Tome, col quale ho avuto la fortuna di mangiare, sia la fortuna di avere ristoranti in comune dove spesso andiamo, magari qualche volta andiamo insieme, qualche volta andiamo, ci sono dei nostri amici che vanno, insomma, Santa Severa e in coma. Anche a Roma abbiamo mangiato, insomma, devo dire che anche ti difendi, io sono più bravo, cioè lì faccio taglia fuori io, ecco, con la tavola. Poi del resto invece sei più forte tu. Senti, dedichiamo la ricetta allora, Aldani, che cosa hai preparato? Ma io pensavo avessi avuto l'occasione di condividere un campo da basket, non una tavola, perché sulla tavola poi vinci sempre tu, Pier. Allora io volevo dedicare a Luigi un prodotto sardo che io ho nel cuore per i primi anni della mia vita di cucina che facevo, insomma, con Gualtiero Marchesi, che era lo zafferano sardo. Luigi sa quanto sia importante, e che negli ultimi anni, grazie alla nuova tecnologia, a una cultura un po' più approfondita, non hanno più polverizzato, ma hanno mantenuto in pistilli puri, belli, sani, lunghi, profumati. Per cui volevo dedicare un gelato di zafferano sardo, pesche cotte nel vino rosso. Allora, è molto semplice: in un pentolino facciamo bollire 3 decilitri di latte di capra, 80 grammi di zucchero, 125 millilitri di panna. Leviamo dalla fonte di calore una volta fatti bollire, aggiungiamo 10 stimmi di numero di zafferano sardo, lasciamo raffreddare, quindi lasciamo in infusione almeno per un'ora, dopodiché mettiamo nella gelatiera e lasciamo mantecare. Questo zafferano probabilmente all'inizio non colorerà moltissimo, per cui l'effetto ottico non sarà come quello di uno zafferano buttato, io dico, in un risotto magari non cucinato bene, ma sarà quello di una parte ottica molto, molto artistica, anche perché ci saranno i pistilli rossi, il gelato leggermente bianco, però un profumo esagerato di zafferano. Per cui a parte prepareremo, laveremo delle pesche che sbucciate e tagliate a metà, più o meno mezza pesca a testa. Io utilizzerei le pesche bianche adesso. Le mettiamo in un pentolino con 4 decilitri di vino rosso, il Cannonau, giusto per stare in Sardegna, 50 grammi di zucchero semolato, 4 foglie di basilico, per cui vedete, basilico e pesca, una cosa un po' insolita, 4 grani di pepe nero profumato, leggermente schiacciato, e la buccia di un limone, oppure anche potrebbe essere di un limone verde. Facciamo cuocere il tutto per 4-5 minuti, mantenendo il liquido di cottura, per cui leviamo dal fuoco, dalla fonte di calore, e lasciamo raffreddare. Dopodiché adagiamo in 4 ciotole separate le mezze pesche scolate e completiamo con un cucchiaio di questo gelato dall'effetto ottico bianco, ma dal profumo molto intenso di zafferano e alcune foglie di acetosella. Beh, insomma, Gigione, se lo saresti mai aspettato, il gelato allo zafferano? Insomma, non mi sembra. Mandami tutto in privato, che mi sono perso un po' nella ricetta. Ma c'è il podcast. C'è il podcast. Allora, perfetto, vamo, riascolto con attenzione. Però ricordiamo la grandezza della zuppa gallurese, che assieme ai Malloreddos, ai Curgiones, alle Panadas, alla Fregola, appartiene veramente al Pantheon, all'elite della cucina sarda, con questo mix di mare e terra, però quest'anima, questa identità che insomma è un marchio di fabbrica di questa regione meravigliosa. Grazie a Gigione, grazie a Gigi da Tome, e adesso Spazio News. Vai. Allora, la pizza margherita compie 131 anni, mica male. Pizza margherita forse è la più popolare, la più famosa, la più mangiata delle pizze. Anche questo tema è un tema caldo che si lega al Covid, perché in questa prima fase di riapertura insomma si sta rivedendo la luce per un settore che poteva mettere a rischio 63.000 pizzerie e circa 200.000 addetti. Comunque, insomma, la tradizione dice che nel giugno del 1889 era nata questa pizza della Real Casa. Camillo Galli convocava il cuoco Raffaele Esposito, sentite che meraviglioso cognome napoletano, della pizzeria Brandi al Palazzo di Capodimonte, e nacque questa magia. Da Napoli, dall'Italia ovviamente, all'Irlanda, una pinta di Guinness, il pub su ruote ve la porta e ve la spilla direttamente a casa. Questo è un locale di Belfast, quindi parliamo di Irlanda del Nord, che ha attrezzato un piccolo furgone per portare e servire la famosissima birra scura a domicilio. E ovviamente ogni luogo, no? Se penso, chef, a questa immagine, mi viene già in mente qualche serata uggiosa nell'Irlanda, nell'Inghilterra del Nord, insomma, ha il suo fascino tutto. Se vuoi . Chiamiamo Esposito, ci facciamo a questo punto fare la pizza con la birra e ci siamo. Può essere una bella, può essere un bel cornicione alto e la birra. Ah. Io direi, va bene. Meraviglia, però sono appena stato a Procida, non me ne parlare. Allora, pasta e vino. Il Made in Italy resiste al Covid attraverso l'export. I danni del lockdown ovviamente sono stati pesanti, ma i dati dei primi mesi dell'anno fanno vedere segnali positivi. E la cosa più bella è che alla fine chi ci salverà, se ci salverà, ma ci salverà, sarà l'export e quindi sarà il brand Italia, il Made in Italy. Il vino per esempio tiene bene negli Stati Uniti, ci sono dei dati sulle esportazioni importanti, la produzione di grano sta aumentando, c'è un boom della domanda interna, ma c'è soprattutto un effetto esportazione. E chiudiamo coinvolgendo il nostro prossimo ospite sull'impatto che il Covid ha avuto su tutta la filiera nobilissima dell'olio. L'effetto dell'emergenza sanitaria si ripercuote infatti soprattutto sui piccoli e medi produttori, quelli che sono slegati dalla grande distribuzione organizzata, e per parlarne, per capire a che punto siamo, io do il benvenuto a David Granieri, presidente di Unaprol, il consorzio olivicolo italiano, membro della giunta Coldiretti, presidente regionale, fra l'altro giochiamo in casa della Coldiretti Lazio. Come vanno le cose? Ciao David, come vanno? Ciao, grazie. Però insomma potrebbero andare meglio, visto insomma il contesto, la situazione sicuramente. Per l'olio sicuramente non molto bene, perché effettivamente gli effetti del Covid sono stati devastanti, specialmente per le piccole aziende, e nell'azzeramento del mercato dell'Horeca, cioè quindi hotel, alberghi e quindi ristoranti, certo, ha di fatto inchiodato le vendite. Infatti il magazzino Italia è altissimo, è pieno, hanno potuto lavorare un po' soltanto le grandi aziende che comunque hanno usufruito di questo vantaggio rispetto alla distribuzione organizzata, ma in realtà l'Italia dell'olio è l'Italia della prossimità e quindi anche delle aree più difficili, dove comunque l'olio non è soltanto prodotto ma è anche residuo territoriale, quindi è molto difficile. L'olio è una produzione fondamentale per il nostro paese, colonna portante dell'agricoltura del centro-sud, ma non potremo mai raggiungere le grandi produzioni spagnole, ma non dobbiamo nemmeno volere quel tipo di sistema che non ci appartiene. Dobbiamo, ecco Davide, dobbiamo comunicare anche questo, noi non vogliamo quello perché noi facciamo una qualità che è italiana, che è totalmente diversa. Per cui se siamo riconosciuti per la qualità che facciamo, dobbiamo insistere sulla qualità e non sulla molte volte, come si fa, sulla grande quantità. Per cui mi fa piacere che anche lei dica così, perché anche il settore vino, certo, si sono accorti quanto sia importante quella parte di ospitalità che è venuta a mancare in questi 3 mesi, proprio per la vendita anche negli stessi ristoranti della mancata vendita del vino. Comunque è un tema che continueremo ovviamente a seguire nelle prossime settimane, perché è importante, e in particolar modo va ricordato, l'olio italiano è un olio di qualità, lo dicono tutti i numeri, lo dice proprio il posizionamento del nostro olio extravergine d'oliva rispetto ai nostri competitor, ovviamente soprattutto alla Spagna e alla Grecia. Abbiamo dei numeri importanti, ma soprattutto abbiamo grandi numeri a valore, perché il nostro è un olio di grande qualità. Grazie a David Granieri, fra poco ritorniamo. Arriva Mimmo Caso, che si è lanciato in un'attività nuova, bellissima, ex giocatore fra l'altro della tua Inter, Davide Oldani, e poi avremo ancora un ambasciatore del gusto, gli SS Oldani, altre 2 ricette, fra poco ripartiamo. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, 1000 risorse. Mangia Mangia come parli. Mangia come parli. Oh, allora, abbiamo ancora due ricette. Abbiamo l'ambasciatore del gusto in arrivo, abbiamo gli SOS Soldani, abbiamo tantissime cose. Ma io do il benvenuto a Mimmo Caso, che con me tanti anni fa, ormai tanti anni fa, commentava le partite in televisione. È stato un giocatore importantissimo, insomma, con tante maglie nobili: Fiorentina, Napoli, Inter, Perugia, Torino, Lazio. Sei stato allenatore, hai lanciato, lo possiamo dire, Di Vaio e Nesta, tanto per citare due nomi in quella Lazio primavera. Mimmo, ma adesso stai facendo una cosa fantastica che si lega al territorio, alla provincia di Viterbo e ha un prodotto, insomma, dalle proprietà importanti, vero Mimmo? Sì, buongiorno, Mimmo, Dani è interista, dal 79 all'81. Tifoso doc, non poteva mancare, fortuna, ha scelto la squadra giusta. Tu hai vinto lo scudetto dell'80 con l'Inter, se sì, non sbaglio, sì, no? 79-80, sì, l'ultima squadra italiana senza straniere vincere il campionato. No? Sì, esatto. Assolutamente, Bersellini, ricordo. Sì, allora, da Bersellini e dal pallone siamo arrivati a questi succhi, devo dire, fantastici. Li ho assaggiati, non so le proprietà, ma intanto so le proprietà sull'umore, perché il gusto è ottimo, di melograno. Sì, direi che sempre attraverso il calcio ho conosciuto praticamente questo ragazzo, la cui famiglia aveva, diciamo, dei terreni in provincia di Viterbo, diciamo a Vasanello, esattamente come paese, e che la famiglia, diciamo, di questi ragazzi, la famiglia Annaioli, sono tre fratelli, Francesco, Andrea e Virginia, grazie alla genialità della madre che ha avuto, diciamo, l'idea di far coltivare questi campi in melograni, hanno avuto, direi, un'idea veramente fantastica. E da questa, diciamo, da questo inizio sono venuti fuori, diciamo, questi melograni che, diciamo, sono il fiore all'occhiello di questa azienda agricola che si chiama La Tenuta del Melograno. E da questo, diciamo, da questa conoscenza è derivata una passione, perché poi, come tutte le passioni, non solo quella calcistica, ma anche quella nei confronti della natura, è venuta fuori, vi posso garantire, vedere i campi di melograno in fiore oppure con il frutto sopra è qualcosa di meraviglioso. Ma la cosa più bella è che chiaramente questo frutto ha delle proprietà straordinarie, la qualità si chiama Wonderful, diciamo, e poi è ricco di vitamine, è ricco di antiossidanti, è ricco anticellulite, antidepressivo, perché sappiamo tutto. Fa bene anche all'umore. No, le proprietà sono clamorose, Davide, la riduzione del colesterolo, gli antiossidanti, l'anticellulite. Assolutamente sì. Ma poi ha preso spazio anche nella cucina, perché noi alcune, mi viene in mente la vinaigrette che facciamo nell'autunno con la melagrana, e la facciamo proprio con il succo addizionato a una parte di zuccheri, di olio extravergine di oliva, per cui ha contaminato molto bene anche la cucina, oltre che alla pasticceria. Allora facciamo così, la prossima volta organizziamo, oggi è tutto un incontro, quando è che andiamo a cena, organizziamo e facciamo nel frattempo tu pensa a una ricetta a base di melograno, ovviamente doc viterbese per Mimmo Caso, mettiamo il melograno e la tua creatività e faremo grandi cose. Grazie. Ma assolutamente. Grazie Mimmo, grazie, mi raccomando. Grazie a voi, grazie dello spazio. Un bacione, grazie. Ma ci mancherebbe. Buon proseguimento, grazie a voi. Sempre grazie, un piacere Mimmo. Sentirti. Senti, sta per arrivare Sandro Serva, ambasciatore del gusto. Gli vogliamo cominciare a dedicare, abbiamo ancora due ricette. Che cosa gli vogliamo dedicare? Dammi le visciole. Arrostite con la robiola di capra romana, mi sembra molto interessante. Tutto molto local. Ok. Poi soprattutto dedicata al mio amico Pier. Cosa facciamo per le visciole? Visciole, cosa diciamo? Come lo dico? A Milano dicono visciole. Visciole. Cosa diciamo? Visciole, ok, con l'accento. Allora, laviamo e denoccioliamo 20 visciole. Le facciamo saltare in un padellino con 20 grammi di burro. Un burro, se vogliamo, anche un burro salato potrebbe andare bene. Spolveriamo con poca noce moscata, grattugiata proprio in ultimo. Sfumiamo con un decilitro di vino aleatico, quindi stiamo sempre nella regione. Lo facciamo evaporare, insaporiamo con 10 grammi di zucchero moscovado. Tu sai che a me questo profumo leggero di liquirizia che lo zucchero naturale moscovado ha piace sempre, e teniamo da parte questa cosa. Poi invece per la robiola tagliamo 4 cubi di robiola da 70 grammi l'uno più o meno, li adagiamo nel centro di 4 piatti fondi, di 4 fondine. Cospargiamo le visciole con le visciole e il loro succo di cottura tiepido sopra a questi 4 pezzi di robiola, e poi terminiamo con delle piccole foglioline di dragoncello, visto che siamo nel periodo dell'estate, il dragoncello avrà un'intensità molto forte di erba fresca, per cui visciole o visciole con robiola e naturalmente le foglie di dragoncello. Benissimo, ottima idea, mi piace. Cosa dici? Dico bene, bravo bis. Sandro Serva, ambasciatore del gusto, patrone, chef, assieme al fratello Maurizio nel ristorante La Trota di Rivodutri, provincia di Rieti. Siamo nel Lazio profondo, prima il melograno in zona Viterbo, adesso Rieti, che è una provincia ricca dal punto di vista gastronomico, perché ce lo raccontava in una puntata di qualche mese fa Fabrizio Roncone, la cucina anche dei romani non è una cucina di pesce, anche se il mare è a mezz'ora di distanza, è una cucina che viene profondamente dall'interno, la contaminazione è entroterra, la contaminazione con l'Abruzzo e ovviamente la provincia di Rieti che ha un ruolo fantastico. Ciao Sandro. Ciao, buon pomeriggio a voi. Grazie. Ciao Sandro. Ciao. Grazie di essere con noi. Mi fa molto piacere portare avanti, dopo la pandemia abbiamo iniziato a seguire ancora di più gli ambasciatori, noi ambasciatori del gusto. Per cui le tue impressioni adesso del lavoro fatto, della rete creata con noi ambasciatori del gusto. Sono ben contento, ecco, che mi avete chiamato, perché chiaramente sì, è manifestare forse direttamente e apprezzare quello che la nostra, io mi chiamo il nostro sindacato alla fine, perché noi siamo sempre scoperti un po', no? Noi ristoratori, noi chef, da chi ci cura un po' e ci guarda le spalle. Gli ambasciatori hanno fatto anche questo ruolo alla fine, non solo quello di coinvolgerci nell'enogastronomia e lanciare il nostro prodotto per il mondo, ma in questo caso sono stati fondamentali. Ho seguito sempre io, da Cristina Bauer ma a Cesare Battisti, o tutto il gruppo che ci comunicavamo in continuazione del loro diciamo così, seguire la situazione del Covid e diciamo, ecco, hanno avuto anche rapporti con il governo, quindi è stata fondamentale. Vorrei ringraziarli ora a nome di tutti noi, perché hanno fatto un grande lavoro, questo sicuramente, ecco, sì. Mi dai una suggestione di questo meraviglioso pesce d'acqua dolce, perché tu sei, il tuo locale è a 3 metri da una fonte naturale bellissima, da un ruscello naturale, e insomma, voi tante volte si può pensare da fuori che il pesce d'acqua dolce, insomma, sia quasi di serie B, e invece non lo è se trattato con la conoscenza e con la qualità necessaria. Ma sì, diciamo che secondo me, secondo noi, è raccontare sempre un territorio nel posto in cui si vive. Noi avevamo questa patata bollente del pesce di acqua dolce, quindi l'abbiamo sposata sin dall'inizio, lavorandoci su per tanti anni, questo non lo nascondiamo, però alla fine abbiamo vinto questa scommessa, perché riuscire a avere un risultato come, ecco, quello che abbiamo avuto noi nel nostro territorio, fuori da nell'entroterra proprio, no? Anche se siamo vicino all'Umbria, vicino alle Marche, vicino all'Abruzzo, ma una zona abbastanza, diciamo così, culturalmente un paesino di 1000 abitanti che difficilmente farà apprezzare. Quindi ormai convincere anche il gourmet di spostarsi nel centro Italia, per noi questo ci onora tantissimo. Come abbiamo fatto? Abbiamo lavorato sodo, abbiamo abbassato la testa senza pensare che tutti i pregiudizi su questo prodotto, e così man mano siamo riusciti poi a portarlo sulla tavola come è un pesce, diciamo, poco nobile, no? È un po' il fratello povero dell'acqua salata, ma qui poi alla fine ora sì, diciamo che tutto va bene, perché ha delle caratteristiche che poi bisogna cercare di utilizzarle anche nella cucina. Non è un pesce grasso, è un pesce magro, quindi lasciare i succhi all'interno, la tipologia di cottura, abbinarci anche quei prodotti che sono intorno al lago. Prima parlavate di acqua, noi siamo in questa sorgente che è la sorgente più importante d'Europa, 5.000 litri al secondo di acqua, quindi diciamo ci ha stimolato tantissimo, no? Abbiamo carpe, lucci, coregone, tinche, e proprio come dicevi te, il riva a fiume, dalle nostre finestre guardiamo quest'acqua limpidissima che scorre. Fantastico. Quindi abbiamo 2 minuti per chiudere la puntata, ma io ringrazio Sandro Serva e ti verrò a trovare, perché veramente la suggestione è fortissima, e perché poi insomma il pesce d'acqua dolce ha una dignità e può dare delle soddisfazioni e dei profumi per certi versi veramente inaspettati e straordinari. SOS Oldani, vai! SOS Oldani. Noemi da Stornarella. Salve chef, consomè e fondo di carne sono la stessa cosa? Grazie mille. Consomè e fondo di carne? Allora, potrebbero essere la stessa cosa nel momento in cui si fa un fondo di carne, poi si chiarifica con gli albumi d'uovo e le verdure, per cui diventa un consomè, un fondo di carne chiarificato. Elena da Milano. Salve chef, sono una grande patita di mostarda. Secondo lei sarebbe possibile riprodurla in casa? E se sì, ha qualche consiglio da darmi? Grazie mille. Ma sicuramente anch'io sono un appassionato di mostarda. La cosa più importante per il quale bisogna fare molta attenzione è l'essenza di senape, perché è quel profumo di mostarda che noi italiani chiamiamo mostarda e i francesi chiamano in maniera diversa, perché la moutarde in francese è la senape, la mostarda da noi è fatta con l'essenza di senape, per cui si può provare a fare con della frutta candita con acqua e zucchero, però la cosa per cui bisogna fare molta attenzione è quando si mettono le due o le tre gocce di essenza di senape, che naturalmente si compra in farmacia con la cautela dovuta, perché è un prodotto sul quale bisogna fare molta attenzione perché è pericoloso. E poi abbiamo Alberto da Bologna. Ciao Davide, ciao Pier, sono Alberto da Bologna. In una puntata ho sentito parlare della salagione come metodo per la cottura del pesce azzurro per far fuoriuscire più acqua e quindi rendere il pesce più carnoso. Visto che la salagione è sale e zucchero, qual è la proporzione? Allora, la proporzione è 1,2 kg di polpa di pesce, che può essere un filetto, mi viene in mente, di salmone da 1,2 kg, per 125 grammi di zucchero, 105 grammi di sale, e poi bisogna fare la proporzione a seconda della grandezza della carne. Senti, in 30 secondi mi fai questa insalata di sedano bianco, anguria arrostita e calamari? E poi se no diamo appuntamento al libro. Vai. Allora, velocemente facciamo questi calamari puliti, tagliati finemente. Possiamo usarli anche a crudo, se appena pescati, conditi con un velo di olio, sale, pepe e un goccio di aceto. E poi prendiamo un pezzettino di anguria tagliata un cubo, la facciamo arrostire su dentro in una padella con un velo di olio sui due lati, non sui quattro, ok, due lati arrostita. Serviamo il nostro pezzo di anguria, il nostro calamaro, in questo caso come dicevo crudo, e poi una piccola insalata di sedano bianco tagliato molto fine e le foglie di sedano bianco che hanno ancora un profumo intenso, magari un velo d'olio alla fine. Bene, mi sembra un'ottima soluzione, un'ottima idea. No? Ma direi di sì, direi che va alla stragrande. Chef, ci sentiamo settimana prossima, mi raccomando. Buona settimana a tutti. Ciao Davide, ciao a tutti, alla prossima, mangia come parli. Ciao. Grazie, ciao.